Questo venerdì 16 marzo i titoli sono tutti declinati, la maggior parte dei quotidiani, sulla riforma del mercato del lavoro. Ieri il vertice Monti ABC, pare che sia andato bene, ma tra poco vedremo. Guida ai nuovi lavori, 8 contratti per i giovani, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Corriere della Sera, accordo sull'articolo 18, La Repubblica, lavoro e giustizia sia l'accordo, La Stampa, lavoro e giustizia, c'è l'intesa. Il Messaggero, intesa su giustizia e lavoro, Il Secolo XIX, Monti, lavoro, intesa vicina. Per vedere altri titoli si va su L'Unità, Placido Rizzotto, sia i funerali di Stato, è una campagna che l'Unità ha portato avanti. Il Manifesto, matrimonio all'italiana, una sentenza della Corte di Cassazione sui matrimoni gay, di cui ci siamo occupati ieri. Il Fatto Quotidiano, 866.000 euro da Lusi alla fondazione di Rutelli, e così Libero titola Sinistropoli sul caso Lusi, mentre La Cricca del Fango è il titolo del giornale Gli Ossessionati dall'ex premier, da Berlusconi. Prima però, essendo venerdì, essendo che magari state programmando un bel weekend, sappiate che la benzina è arrivata ormai a 2,02 euro al litro. Stamattina alle 6 di mattina, come sempre venendo per Milano, ho trovato un benzinaio e c'era scritto fuori il prezzo 1,75 euro al litro. Infatti c'era la fila alle 6 del mattino a Milano, c'erano almeno 6-7 macchine ferme. La Verde sfonda, quota 2 euro, tasse, produttori, petroliere, ecco cosa c'è dietro al salasso. Vi segnalo Repubblica, pagina 12 e 13, due pagine per capire, senza arrabbiarsi, perché costa così tanto la benzina. Ettore Livini, sapete quanto costa realmente la benzina, dice Davide Tabarelli di Nomisma Energia? 10 centesimi. Quanto la si paga al distributore in Venezuela, dove il governo la vende caricando solo le spese vive, il prezzo del greggio al pozzo e quello per trasformarlo in carburante? 10 centesimi in Venezuela. Perché noi paghiamo 2 euro? Com'è possibile? Ecco qui, il primo balzello scatta appena l'oro nero arriva in superficie. La compagnia di perforazione paga al paese produttore una super royalty di 60 centesimi al litro. Poi il noleggio della nave per portare il petrolio, 2,5 centesimi al litro. Trasformare il greggio in raffineria costa altri 2,5 centesimi, aggiungendo 8,7 centesimi di guadagno netto della compagnia, 5,7 tra margini del distributore e spesa al dettaglio. Insomma, un litro di benzina arriva al confine italiano al costo industriale di 0,8 euro al litro. 0,8. E perché noi paghiamo 2 euro? Perché c'è la mannaia delle tasse. Appena la benzina varca il confine, l'erario mette il 52% del prezzo della verde, 1 euro al litro circa, 56% di quello del gasolio se ne vanno in tasse allo Stato. Nel 2011 abbiamo pagato 37,3 miliardi grazie a IVA, accise sui carburanti, allo Stato. Volete sapere le accise? Queste forse le sapete. Qui vi incazzate, ve lo dico subito. L'elenco dei balzelli: paghiamo 1,03 millesimi di euro al litro di accisa per finanziare 77 anni dopo la guerra d'Etiopia, 7 millesimi al litro per la crisi del canale di Suez, che assicurano i libri di storia è finita nel 1956. Poi la voce fondi per catastrofi naturali, paghiamo le accise di 5 millesimi al litro per il terremoto del Belice, 3,8 centesimi per il terremoto dell'Irpinia, 4 centesimi per l'emergenza immigrati dalla Libia, 2 per il contratto degli autoferrotranvieri, a cui vogliamo tutti bene, del 2004. Gli ultimi 2 li ha aggiunti Monti per finanziare il trasporto dei pubblici, i trasporti pubblici locali. Ora a me va bene tutto, ma pagare per la guerra d'Etiopia 1,3 millesimi al litro, li rivorrei. Vorrei chiedere direttamente al povero distributore, al povero gestore del distributore che non c'entra niente, mi dia 1,03 millesimi per ogni litro, perché io la guerra d'Etiopia non la voglio più finanziare oggi, nel 2012. Comunque, leggete Repubblica, pagina 12 e 13. Poi è l'apertura di Italia Oggi, il titolo che trovate è questo: niente avvocati low cost. Questa è una vicenda che racconta uno spaccato d'Italia, eh? È una vicenda che poi è spiegata tutto nei dettagli a pagina 21. Il Consiglio Nazionale Forense, cioè degli avvocati, ha sanzionato un gruppo di avvocati lombardi che pubblicizzava servizi professionali offrendoli a prezzi stracciati. Leggo il titolo di Italia Oggi. La vicenda inizia nel 2010, è stata ora denunciata da Altro Consumo, quando un pool di legali, 5 professionisti sotto il marchio Avvocati Point a Milano, propone, pubblicizzandola su un quotidiano locale, una tariffa vantaggiosa, 600 euro IVA inclusa, per assistenza in caso di separazione consensuale e divorzio. C'è tutta una causa, l'ordine forense di Monza interviene, sospende per 2 mesi i 5 avvocati perché hanno leso dignità e decoro della categoria. Cioè, è perché hanno offerto un prezzo vantaggioso, no? E ora si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, con una decisione depositata lo scorso 2 marzo, che ha ridotto questa sanzione, non c'è più la sospensione di questi avvocati, si è passati a una sanzione più leggera, l'avvertimento, ma sentite il principio del Consiglio Nazionale Forense: la proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro alla professione, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendosi considerare l'adeguatezza del compenso al valore e all'importanza della singola attività posta in essere. Vabbè, insomma, parlano in avvocatese, ma per il Consiglio Nazionale Forense il messaggio pubblicitario pubblicato sul giornale era connotato da slogan sull'attività svolta dagli avvocati, ai quali si accompagnava una grafica tale da porre un'evidente enfasi sul dato economico e su altre informazioni rappresentate in modo da costituire una indebita offerta di servizi e prestazioni professionali dirette all'indistinto e scarsamente competente pubblico dei lettori. Traduco io, c'erano degli avvocati che volevano far pagare un po' meno, forse un po' più onestamente, delle cause di separazione, che a volte sono 4 scartoffie, a volte 4 scartoffie, far pagare 612 euro è un qualcosa che lede il decoro della professione degli avvocati. Caccia i servizi legali low cost è l'apertura che trovate su Italia Oggi. Ci fermiamo 4 minuti. Eccoci qua alle 7:36. Allora, ieri c'è stato questo vertice dal Premier Monti con ABC. Il più entusiasta sembrava contento, no? Era Casini. Casini ha twittato tutto. Sapete che ormai c'è questa moda, devo dire a volte un pochino insopportabile, di twittare tutto. Cioè, uno è lì, c'ha magari Monti davanti e invece che parlare con Monti è lì sul cellulare che twitta. Ha twittato: presenti tutti, nessuna defezione. Sapete che l'ultima volta invece Alfano aveva fatto saltare il vertice. E poi ha twittato anche la foto, cioè ha fatto un autoscoop, cioè questa foto la trovate sui giornali, c'è un Monti molto rigido in piedi e Bersani, Alfano e Casini che sorridono. Tra l'altro, vi immaginate, cioè Casini quindi ha chiesto a qualcuno: scusa, ci fai una foto col telefonino? Perché uno dei presenti lì, una foto un po' scura, cioè anche Casini si apre la giacca, si intravedono delle bretellone rosse. Cioè, proprio come così in una gita fuori porta. Scusa, ho trovato il primo funzionario che passava, magari ci fai una foto che la devo mettere su Twitter? Ed eccoli lì che ridono. Accordo fatto su giustizia, articolo 18. Questo è l'aspetto ovviamente più di colore. In realtà poi c'è l'aspetto politico. Pare che sia andato bene questo vertice. Al vertice vince il senso di responsabilità, così titola il Corriere della Sera a pagina 3. Si è parlato di giustizia, si è parlato di Rai, si è parlato di riforma del mercato del lavoro, ovviamente. Pare scrive il Corriere, che ha chiesto e sembra ottenuto un mandato pieno, senza distinguo, per chiudere la trattativa sul lavoro già martedì prossimo. Questo avrebbe ottenuto Mario Monti. Dunque, stando ai resoconti dei giornali, il vertice è andato molto bene. Il ministro Elsa Fornero aveva detto settimana prossima si chiude la riforma del mercato del lavoro. Ci sono ancora tanti temi ovviamente sul tavolo su cui trattare. Per esempio, Nicoletta Picchio racconta a pagina 3 del Sole 24 Ore: licenziamenti disciplinari si cambia, l'idea è sempre quella del modello tedesco. Il punto di riferimento, cioè, è il giudice che decide se optare per il reintegro del lavoratore in azienda, in Germania è quasi mai applicato, oppure prevedere un indennizzo economico. C'è sugli ammortizzatori, i contratti, le partite IVA, l'apprendistato, tutti i temi sul tavolo. Tra l'altro oggi Oscar Giannino ne parlerà alle 9, ci sarà ospite tra gli altri il segretario della CISL Bonanni. Il Sole fa anche una guida molto interessante, pratica, sui nuovi lavori, soprattutto sull'apprendistato, ma comunque saranno diversi gli 8 contratti sono per i giovani, e trovate una guida pratica di 4 pagine, pagina 5. C'è anche poi la svolta, pare, nella CGIL. Secondo Repubblica, pagina 9, la CGIL ieri ha fatto una riunione fiume di diverse ore, nella quale si è sancito un principio importante: l'articolo 18 può cambiare, e se c'è anche l'avallo della CGIL vuol dire che forse davvero siamo a una svolta decisiva. Ovviamente fa sapere Roberto Mania che formalmente la CGIL non ha preso alcuna decisione, di più, formalmente resta intatta la linea secondo cui l'articolo 18 non si tocca, approvato dall'ultimo comitato direttivo. In realtà la CGIL è a un passo dalla svolta sull'articolo 18. Una lunghissima riunione di ieri tra la segreteria nazionale e i leader di tutte le strutture territoriali di categoria ha preparato il terreno all'affondo della prossima settimana, quando la trattativa entrerà nel vivo a Palazzo Chigi per la chiusura. L'unica eccezione di Maurizio Landini, che è poi il perno della minoranza della FIOM, la CGIL che vogliamo, questo è il, diciamo, la confederazione, è quello che ha stabilito ieri, la CGIL che vogliamo è quella di dire sì al modello tedesco sulle procedure per i licenziamenti che non siano discriminatori, dunque affidando al giudice la decisione se reintegrare il lavoratore oppure indennizzarlo. Sarebbe una svolta certamente storica, e la CGIL, secondo Repubblica, è pronta a fare questa svolta. Non resta che attendere ovviamente settimana prossima. Chi invece guarda con preoccupazione quello che sta succedendo è Dario Di Vico, sul Corriere della Sera dà voce a queste preoccupazioni in un'intera pagina. Sono i cosiddetti piccoli, cioè Marco Venturi, che ieri che è responsabile di Rete Impresa, che ieri è andato a fare il giro delle tre chiese, da Alfano, da Bersani, da Casini, per manifestare tutta l'insoddisfazione di Rete Impresa Italia, di cui è portavoce, perché Rete Impresa Italia dice praticamente solo le parti sociali canoniche, vale a dire sindacati, Confindustria, hanno trattato con il governo. Il timore dei piccoli è proprio questo: contano solo Confindustria e sindacati, e dunque Rete Imprese cerca di fare un pressing sui politici per dire veniamo esclusi. E ha usato questa espressione Marco Venturi: mi sembra di stare su un autobus in cui tutti hanno qualcosa da dire sull'autista, ma si rivolgono solo al bigliettaio perché sia lui a rappresentare il loro malumore. Cioè, non siamo abbastanza rappresentati. Venturi e gli altri, scrive Di Vico nell'articolo che continua poi a pagina 10, speravano che i rospi finissero qui con l'aumento dell'IMU. Tutta un'altra serie di piccoli balzelli che graveranno per circa 5.000 euro aggiuntivi su ciascuna impresa. Invece l'introduzione dell'ASPI, cioè la nuova indennità di disoccupazione, comporterà per le piccole e medie imprese un aggravio di 1,2 miliardi, di cui almeno la metà aggiuntivi ai contributi versati oggi. Non è tutto. Rete Imprese aveva chiesto che le risorse aggiuntive per allargare le tutele degli ammortizzatori sociali fossero compensate da una diminuzione dei soldi che le imprese versano per INAIL e malattie, due gestioni che sono fortemente, sostengono gli artigiani, inutilmente in attivo, ma non se n'è fatto nulla. Dunque, varie proteste di Rete Imprese Italia che dice solo sindacati e Confindustria sono ammessi con forza al tavolo della trattativa. C'è stato poi ieri un giallo, sempre per quel che riguarda l'economia, un giallo a cui ha posto fine poi Mario Monti in persona alle 8 di sera, sulla questione delle banche e sulla norma che prevede la gratuità dei conti correnti di base per i pensionati che ricevono non più di 1.500 euro al mese. Questa gratuità dei conti è stata messa in dubbio durante la giornata dal sottosegretario Polillo, che ora finisce anche sui giornali, intervistato sulla polemica, tra polemiche. Lui dice: guardate che io non volevo togliere nessuna gratuità, però ho posto questo problema. Se un pensionato, a parte quel reddito da 1.500 euro, ha anche altri redditi o anche altri proventi, è giusto che abbia il conto gratis? Forse bisognerebbe farlo gratis il conto solo per i pensionati monoreddito, cioè coloro i quali guadagnano solo quei 1.500 euro, non più di 1.500 euro al mese. Ma se uno ha, che ne so, proprietà immobiliari, forse è giusto che il conto lo paghi. Mario Monti poi ha chiuso questo giallo dicendo: la gratuità dei conti correnti di base per i pensionati che ricevono non più di 1.500 euro al mese rimane, è una norma che non si tocca. Questi, diciamo, l'aspetto economia, mentre l'aspetto politico e di partiti oggi è interessante, perché il livello di gradimento dei partiti da parte degli italiani è bassissimo. Oggi il Fatto Quotidiano lo certifica con un sondaggio, e anche perché a leggere sono solo inchieste giudiziarie, almeno questo riportano i giornali. L'ultima in ordine di tempo riguarda la vicenda Lusi, la vicenda sindaco di Bari Emiliano, e poi basta, insomma, già ce n'è abbastanza. E da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. E allora, da Lusi 866.000 euro a Rutelli. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 21, l'anticipazione dell'Espresso che oggi dà questa notizia. L'ex tesoriere della Margherita Lusi avrebbe dato appunto questa somma, 866.000 euro, a una fondazione a cui a capo c'era Rutelli, cioè l'ex capo della Margherita. Rutelli minaccia querele, dice sono articoli messi, sono articoli alimentati dallo stesso Lusi. Sta di fatto che questa vicenda davvero ancora trova spazio sui giornali. Lusi, diffide Ricatti, la guerra sui soldi tra gli ex della Margherita, anche Fiorenza Sarzanini, a pagina 14 del Corriere della Sera, come un'altra vicenda che sembra allargarsi. Ripeto, il sindaco di Bari Emiliano del Partito Democratico non è indagato, ma sui giornali oggi continua ad aumentare il pressing, se si vuole, su di lui. Appalti a Bari, il comune era in mano alla cricca. La vicenda segue l'arresto di un costruttore consigliere del PD, De Gennaro, che è un'inchiesta che però ora sembra lambire sempre di più il sindaco Emiliano. Beh, ieri intanto abbiamo letto, no, di quel pacco regalo che ricevette nel 2007, ma come spesso si mandano pacchi regali alle istituzioni, no, con le cozze pelose, gli astici, le noci bianche, vabbè, insomma, un pacco abbastanza, vino, formaggi, 4 spigoloni, 20 scampi, 8 astici, ostriche imperiali. Al sindaco di Bari vengono mandate le ostriche imperiali, mica le ostriche, 50 cozze pelose. Sta di fatto che il giornale attacca frontalmente: ecco le carte che inchiodano la giunta Emiliano. Pagina 11, stralci delle intercettazioni. Ma come le intercettazioni sul giornale? Che strano. Ah, ma in questo caso perché Emiliano è del Partito Democratico, quindi le intercettazioni credo che vadano bene. I PM accusano un comitato d'affari influenzava il comune di Bari, ecco le intercettazioni, con alcuni che dicono ci siamo fatti due assessori, sarebbero riusciti a mettere due assessori. Oppure un altro, un De Gennaro, che dice tu devi andare ovviamente, mo ne parliamo con Emiliano, cioè a capire, fa sapere il giornale che avevano delle intrature. Il Fatto Quotidiano, anche con Antonio Massari, attacca a pagina 3 dicendo attenzione, senza i voti portati dagli imprenditori arrestati 3 giorni fa, il sindaco Emiliano non sarebbe seduto sullo scranno di primo cittadino, perché ha vinto le elezioni al ballottaggio grazie alla lista Realtà Barese, che ha portato 7.200 voti, senza i quali avrebbe perso al primo turno, perché ha vinto il primo turno di 6.000 voti, dunque senza quei 7.200 voti che hanno fatto la differenza, e questa lista Realtà Barese è stata sponsorizzata dagli imprenditori De Gennaro. Emiliano su Twitter, sempre su Twitter, Twitter, si difende: effettivamente quei regali delle cozze pelose li dovevo respingere, ma mi sembrava una scortesia, insomma. No alle cozze pelose. Sta di fatto che sia il Fatto Quotidiano fa un sondaggio, Renato Mannheimer, la fiducia ai partiti, lo trovate a pagina 4, è al 4%. Com'è il 4%? Cioè vuol dire che il 96% in questo sondaggio dice non abbiamo fiducia ai partiti, ma è impressionante, non ci voglio credere. Su questo anche Romano Prodi, l'ex premier, intervistato al Secolo XIX a pagina 4, fa un'intervista dicendo: il governo Monti ci ha tirato fuori dalla palude e qui mi fermo. E sui partiti, certo hanno ancora una funzione, ma vedo un nuovo scenario. I partiti però sono vivi. Lo trovate, Romano Prodi, Re di Vivo, a pagina 4 del Secolo XIX. La cronaca si impone per la decisione, noi ne abbiamo parlato ieri, delle coppie gay e del matrimonio, una decisione della Corte di Cassazione che, bando alle interpretazioni esagerate, la migliore interpretazione come sempre la trovate in questo caso sul Sole 24 Ore a pagina 26, Giovanni Negri, coppie gay con tutela familiare, racconta che cosa ha deciso la terza sezione della Corte di Cassazione. Ha deciso questo: non può essere trascritto in Italia il matrimonio omosessuale celebrato all'estero, neppure essere ritenuto un diritto quello della celebrazione in Italia. Tuttavia, la coppia omosessuale può essere considerata titolare di una vita familiare, suscettibile di essere tutelata anche sul piano giuridico in determinate situazioni. La vicenda riguarda una coppia di latina che si era sposata in Olanda e che si è rivolta alla Corte di Cassazione. La coppia, tra l'altro, viene intervistata da Repubblica a pagina 2, si chiamano Antonio e Mario, sposi in Olanda nel 2002, dicono: ora la sentenza è il regalo più bello per i nostri 10 anni di matrimonio. Ma l'intervista più interessante, a mio modo di vedere, a pagina 27 del Corriere della Sera, è di Gian Ettore Gassani, intervistato, il presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, che spiega cosa può cambiare ora. È una sentenza rivoluzionaria, dice l'avvocato Gassani. La Cassazione ha dato una spallata violentissima a un dogma giuridico che non voleva riconoscere non solo le coppie di fatto omosessuali, ma nemmeno le coppie di fatto etero. Che cosa cambia? Facciamo qualche esempio. Paolo e Francesco decidono di rivolgersi al giudice del loro tribunale di competenza chiedendo di regolamentare la loro convivenza con una sentenza specifica. Il tribunale può decidere di applicare alla coppia in questione l'articolo 143 del Codice Civile, che rispetto al matrimonio stabilisce 3 principi: il diritto dovere alla coabitazione, l'obbligo di fedeltà e l'obbligo della compartecipazione alle spese del ménage familiare. Può decidere anche altro, in teoria tutto ciò che attiene alla vita familiare, come il diritto alla successione, non servirà più fare testamento. Sulla pensione di reversibilità, invece, dice Gassani, andrei cauto perché sono soldi pubblici e non è così scontato. Penso però invece potrà decidere sull'assegno di mantenimento, cioè quello che si dà nelle separazioni. Non vedo perché no, anche se i giudici dovranno sudare 7 camicie per stabilire l'entità. Insomma, una sentenza che, dice l'avvocato presidente degli avvocati matrimonialisti, è assolutamente rivoluzionaria. Avvenire invece tuona: nozze gay, Cassazione fuori strada. Questo è, cari ascoltatori, sono le 7.54. Sappiate, giusto per chiudere, che in Gran Bretagna hanno stabilito che l'ora peggiore per fare incidenti sono le 8.38 della mattina. Dunque tra 42 minuti. Lo trovate sul Corriere della Sera, 8.38 di mattina, perché a quell'ora i pedoni attraversano allegri guardando l'iPhone, guardando Twitter, e poi si fanno schiacciare. 8.38, attenzione, giornale radio.